Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Eclettiche ed eclettici, benvenuti per un'altra settimana da passare assieme 5 volumi. Voi dall'altra parte degli apparecchi radiofonici, io da questa parte dove ci sono microfono, cuffie e mixer. Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e che gestisce anche, ma lì il vostro contributo è fondamentale, myspace.com/eclettica. Orsigna, 12 marzo 2004. Mio carissimo Folco, sai quanto odio il telefono e quanto mi è ormai difficile, con le pochissime forze che ho, scrivere anche due righe così. Per cui niente lettera, ma un telegramma con le due o tre cose a cui ancora tengo e che è importante tu sappia. Sono terribilmente affaticato, ma serenissimo. Adoro essere in questa casa e conto di non muovermi più da qui. Spero di vederti presto, ma solo a condizione che tu abbia finito il tuo lavoro. Una volta qui, tutto ci travolgerà, specie se tu accettassi un'idea sulla quale ho molto riflettuto. Questa. E se io e te ci sedessimo, ogni giorno per un'ora, e tu mi chiedessi le cose che hai sempre voluto chiedermi, e io parlassi a ruota libera di tutto quello che mi sta a cuore, dalla storia della mia famiglia a quella del grande viaggio della vita. Un dialogo fra padre e figlio, così diversi e così uguali. Un libro testamento che toccherà a te mettere assieme. Fai presto, perché non credo di avere molto tempo. Fai i tuoi programmi e io cerco di sopravvivere ancora per un po' per questo bellissimo progetto, se sei d'accordo. Ti abbraccio, il babbo. Questo era l'incipit di La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. A cripple walks amongst you all, you tired human beings. Got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you? We'll be right back.

apart from the moments so dear to my heart. We were made in the dark. We were made in the dark. We were made in the dark. We were made in the dark. Since I stole this song, we have made a new start. My premonition hits hard as our start is apart. Every night the motion must be fixed by a glue. Fixed as one breaks in two. We were made in the dark. We were made in the dark. We were made in the dark. We were made in the dark. Crediamo di essere tutte le cose che ci preoccupa di perdere morendo. Con l'identità, giornalista, avvocato, direttore di banca, ti ci sei identificato. E l'idea che tutto questo scompaia, che tu non sia più il grande giornalista, il bravo direttore di banca, che la morte ti porti via tutto questo, ti sconvolge. Tu possiedi la bicicletta, l'automobile, un bel quadro che hai comprato con i risparmi di tutta una vita, un campo, una casetta al mare, è tua. E ora muori e la perdi. La ragione per la quale si ha tanta paura della morte è che con quella bisogna rinunciare a tutto quello che ci stava tanto a cuore, proprietà, desideri, identità. Io l'ho già fatto. Negli ultimi anni non ho fatto che buttare a mare tutto questo e non c'è più nulla a cui sono legato. Perché ovviamente tu non sei il tuo nome, tu non sei la tua professione, non sei la casetta al mare che possiedi. Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. The mind misinterprets your own role, but nobody's what you see, nobody came. So please leave the spotlight, it's none of your place anymore. And all of a sudden it's clear that I'm glad I'm out of that. Cause nights we're restorers from days where the logic's prevail. And once again the words that could distract me from where I was directed have left me over here. Thank you. can't believe we're paying to see something we get on TV for free. If you ask me, everybody in this theater is a giant sucker. Especially you! Un brano prima che ci interrompiamo per pochi minuti, un break pubblicitario e poi riprende Eclettica con la seconda parte del primo volume di questa settimana. Vi devo ricordare l'esistenza della lista nera, ovvero sia della possibilità di avere settimana per settimana nella vostra casella di posta